Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, innanzitutto buona Pasqua. Se in questi giorni avete intenzione di dedicare qualche ora alla lettura, magari a qualche romanzo, vi segnalo un titolo interessante, è di un autore italiano, si chiama Antonio Pennacchi e il titolo è Canale Mussolini, pubblicato da Mondadori, 462 pagine, 20 euro. L'autore è un ex operaio di Latina, diventato scrittore, che ha scritto dei libri fortunati come Il fascio comunista, da cui è stato tratto il film Mio fratello e figlio unico. Poi ha scritto anche un libro di cui parlammo in questa trasmissione, cioè Fascio e martello, viaggio per le città del Duce. Questo è un libro ambizioso, sicuramente uno dei più interessanti di questa stagione, ed è la storia di una famiglia patriarcale del Delta del Po, fascista un po' per caso, ma poi sempre molto fedele al regime, che a un certo punto si trasferisce a Latina, nell'agro pontino, dove il regime ha appena completato la bonifica. Le condizioni di vita nel Veneto originario sono assolutamente improponibili, le vecchie famiglie agrarie si sono comportate come dei ladri con questi mezzadri e quindi la famiglia è costretta appunto a emigrare. E abbiamo quindi la descrizione di questa famiglia negli anni del fascismo, la descrizione di una comunità che nasce nell'agro pontino mantenendo le proprie tradizioni culturali, di lingua, di alimentazione, di costumi, a centinaia di chilometri naturalmente di distanza dal loro posto di origine. E così la storia dei Peruzzi diventa, come una sorta di aggiornata versione del Mulino del Po, uno spaccato significativo della storia d'Italia. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Antonio Pennacchi. Buongiorno. Antonio Pennacchi, questo libro, Canale Mussolini, è più l'epopea di una famiglia del paese o di un pezzo di paese come appunto l'agro pontino che viene restituito a una nuova storia? Questo è un giudizio che deve dare chi lo legge. Io ho scritto la storia di una famiglia che negli anni 30 dal Veneto viene portata nel Lazio, in agro pontino, per la bonifica delle paludi pontine. Però è chiaro, è la storia di una famiglia, ma è chiaro che attraversa la storia di un paese, c'è l'emigrazione, le bonifiche, l'emigrazione è stata dal nord al sud, insomma, lo scontro con le popolazioni che trovano qui. È la storia di una famiglia, ci sono i personaggi, però che accade negli ambienti che sono tipici della storia italiana. Alla fin fine, se te guardi bene, i fenomeni migratori ci sono anche adesso, insomma, no? Certo. Solo che vengono dall'Africa o... Però gli scontri, le questioni sono sempre le stesse, insomma, ho la sensazione. E in questo senso un aspetto particolare del suo libro, per esempio, è anche l'esperimento linguistico, cioè questo trapiantare una particolare tradizione del dialetto veneto nell'agro pontino. Guardi, questo non è un esperimento linguistico del mio libro, questo è quello che è successo. Se lei viene in agro pontino e gira per i borghi intorno a Latina, lei trova ancora la gente che parla in veneto. Noi siamo stati portati dal Veneto, mia mamma era veneta, Veneto Ferrarese, diciamo, era della Bassa Padana, insomma, del Polesine, e mia mamma parlava in veneto. Al di là di questa appartenenza linguistica, c'è ancora forte un senso di appartenenza a una comunità come quello che viene fuori da questo suo libro, allora? Guardi, io credo che la gente non ne abbia consapevolezza, perché se lei va in giro per Latina, la gente dice, ah, ma che brutto posto, stavo meglio al paese mio, no? Perché i fenomeni migratori poi a Latina sono continuati in tutti questi anni, ma come in tutto il resto del paese, per esempio. Ancora adesso continuano ad arrivare, cioè, negli anni 50-60 arrivano dalla Calabria, dalla Campania, adesso arrivano dai paesi dell'est, però queste sono le cose strane di questo paese. Se lei va in giro per Roma e vede i bambini neri di colore che parlano romanesco e ti fanno Roma, e così sono i ragazzi rumeni qui a Latina, che invece a Latina dice che parlano ancora del camion che sta sotto la piazza, della bonifica delle paludi. Cioè i miti di fondazione poi diventano miti identitari e comuni anche a quelli che arrivano dopo. Allora le ripeto, forse non ce n'è consapevolezza nel popolo oggi a Latina, ma certamente c'è nei fatti ancora la forte adesione, il forte senso di alterità rispetto alle montagne che ci circondano e rispetto al resto del paese, perché questo è un territorio che abbiamo fatto noi. Capisce? Qui c'era un deserto, non c'era niente, c'erano le paludi e noi lo abbiamo fatto, nel bene e nel male, e quindi siamo un popolo e una nazione veneto-pontina, appunto. Senta, veniamo a una di natura politico-ideologica. La famiglia Peruzzi, la protagonista di questa saga, è una famiglia fascista, anche un po' per caso, perché Mussolini si era fermato a casa loro, eccetera. Però l'inizio, diciamo, la venatura originale è una venatura più socialista, più di sinistra, che non fascista. Ecco, come si manifesta questo cambiamento dell'atteggiamento politico della famiglia Peruzzi? Che cosa rappresenta? Io non la vorrei disturbare, però io ho raccontato le storie di questa famiglia, ma sono sicuro che al 95% questa è la storia anche della sua famiglia, perché questa è la storia del popolo italiano. Il popolo italiano, quando è stato tutto fascista fino al 25 luglio del 1943, ed era tutto invece antifascista prima del 22, ma questa è la storia, che le posso fare io? Così sono andate le cose in questo paese. No, ma io non... E così vanno anche adesso, lei si ricorda? Qualche anno fa in Veneto votavano tutti per la Democrazia Cristiana, o al nord votavano solo per la Democrazia Cristiana o il Partito Comunista. E oggi invece votano tutti Lega o Berlusconi. Se lei va alle feste della Lega, il 90% di quelli che cucinano le salsicce le cucinavano prima alle feste dell'Unità. Che le posso fare io? Questo è il paese nostro. No, ma io non ne davo un giudizio di valore. Mi incuriosiva capire questo ritratto che lei ha fatto di una famiglia che sostanzialmente è molto vicina anche agli ideali socialisti all'inizio e poi diventa fascista. Guarda, poi c'è l'altro aspetto. Io ho fatto un romanzo, la storia di persone che amano, che soffrono, che lottano, che lavorano, che combattono, che muoiono. E poi però non è colpa mia se queste persone vivono in questo paese. L'Italia è questa, io... Che ne posso fare? C'è anche l'altro dato, forse questa differenza fra fascismo e comunismo era molto più nella testa degli intellettuali che nei fatti pratici e nella vita e considerazione del popolo, perché poi è andato di fatto, a noi questi ci hanno portato giù dal Veneto, ci hanno portato di qua, ma noi ci siamo venuti perché su morivamo di fame, non è che siamo venuti perché se stavamo bene a casa nostra, noi ci restavamo, ci hanno portato qua, noi eravamo senza terra. E questi hanno tolto le terre ricche e ce le hanno date noi, hanno tolto le terre ricche e le hanno date ai poveri. Ma mi dica lei, quale regime reazionario di destra in tutta la storia dell'umanità ha mai fatto questo? Quindi voglio dire, all'interno del fascismo, vedete, il fascismo sono stati 20 anni di dittatura che hanno interessato, che non sono stati tutti colpa solo dei Mussolini, e c'era tutto il popolo dietro, nel bene e nel male. Quindi 20 anni in cui c'è stato il male, cioè le leggi razziali, la dittatura, le guerre che abbiamo perso. Però ci sono stati anche aspetti positivi. Questi hanno tolto le terre ai ricchi e le terre ai poveri. Quindi tanta differenza al fondo non c'è tra destra e sinistra all'interno del fascismo. Certo, bene, che grazie. Questo fai io, mica è colpa mia, questi sono i fatti. No, ma non... Ma noi ci vado a vedere, non lo trovi lei. Non glielo rinfacciavo come una colpa, volevo solo che ce lo spiegasse. Grazie ad Antonio Pennacchi, autore di Canale Mussolini. Grazie a voi. Grazie mille. Salve. Vengono dal nord-est, ma lì sono rimaste le protagoniste di Ragazze del nord-est di Romolo Bugaro e Marco Frangioso, pubblicato da Marsilio, 142 pagine, 15 euro. Sono storie vere queste narrate nel libro, raccolte fra il 2007 e il 2008 e riguardano donne tra i 20 e i 30 anni. Le storie sono 9 e sono qui raccolte per dare il senso della trasformazione di quell'area geografica, ma anche per testimoniare la pressione fortissima da tutti i punti di vista alle quali sono sottoposte queste giovani donne nel pieno della loro maturazione, nell'età centrale della loro vita. Ne risultano non delle interviste, ma delle testimonianze interessanti. C'è il rapimento, c'è la ragazza tormentata dal mancato campione di moto, c'è la depressa, la volontaria del telefono amico e tante altre figure. E poi appunto c'è il nord-est, dove si intrecciano antiche povertà e nuove ricchezze che danno vita a un processo di trasformazione profonda che coinvolge le vite di tutti. Coetanei alle Ragazze del Nord-Est sono invece i protagonisti di un libro francese, un libro di François Bégodeau, l'autore de La Classe, il libro dal quale fu tratto il film vincitore della Palma d'Oro del 2008. Un film secondo me un po' sopravvalutato, ma che ebbe un grande successo anche nel nostro paese. Il titolo nuovo è Verso la dolcezza, pubblicato da Einaudi, è stato tradotto da Tiziano Loporto e Lorenza Pieri, 152 pagine, 15,50 euro. Qui abbiamo un gruppo di 35enni le cui storie ruotano intorno a Jules, un giornalista sportivo precario dall'incerta vita sentimentale. Per la verità tutto è incerto e precario nella vita di questi ragazzi, capaci perfino di diventare adulti. A 35 anni arrivò il momento di diventare un uomo, scrive il libro, e poi qualche pagina dopo a 36 anni arrivò il momento di diventare un uomo e così via. Questi ragazzi, giovani adulti, ormai lavoricchiano, amoreggiano, osservano la politica in occasione di un'elezione presidenziale, sempre senza passione, sempre senza trasporto, con una generica inclinazione a sinistra, vorrebbero avere un figlio ma non sanno bene con chi farlo. E la cronologia finale del libro fa da spartito a vite quindi incerte e insicure che si esprimono anche in un linguaggio particolare fatto di toni alti, di turpiloquio. Il registro elevato è quello triviale, lo stesso scrittore ha spiegato in un'intervista di non voler mai rinunciare a questo doppio registro che dà ricchezza, a suo dire, alla resa letteraria della sua opera. Un'altra storia che ha per protagonista una donna, ma questa ci porta in Sicilia, è quella raccontata da Carla Cerati, che è una fotografa e scrittrice, che ha appena pubblicato Storia vera di Carmela Iuculano, la giovane donna che si è ribellata a un clan mafioso. È pubblicato da Marsilio, 158 pagine, 15 euro. La protagonista è una ragazza nata nel 1973 a Palermo che abbandona una famiglia mafiosa nella quale era entrata a far parte attraverso il matrimonio. Un matrimonio che si era rivelato subito una tragedia nonostante l'arrivo dei figli. E proprio per amore dei figli la Iuculano decide di staccarsi dalla mafia fino a testimoniare in un importante processo che squarcerà il velo sugli affari di una cosca che fa capo a Provenzano. Quello di Carmela Iuculano quindi è stato un percorso tortuoso e difficile che, riassume l'autrice, ha consentito di arrestare un buon numero di criminali, ma che ha naturalmente costretto la donna a una vita sotto copertura. Naturalmente, conclude la Cerati, Rosalia spera che la sua scelta spingerà altre donne come lei, mogli, sorelle o madri di boss della mafia a seguire il suo esempio. Tutt'altro genere di donna, un'icona dell'Italia moderna, invece è Valentina, la creatura di Guido Crepax, che torna nel libro Valentina, biografia di un personaggio, pubblicato da Salani, 152 pagine, 10 euro. Naturalmente questa è una storia a fumetti, troviamo diverse storie su Valentina, ciascuna delle quali è seguita da alcune pagine inedite con delle note che spiegano anche il modo in cui si è formata quella storia, in cui si è sviluppata la creazione artistica di Crepax. Un autore, spiega il prefattore Miro Silvestri, che si può paragonare a Proust, perché entrambi sono stati sognatori, scrive Silvera, ed evocatori del loro particolare mondo. E Valentina, con le sue storie onirico e ottico esistenziali, ancora oggi è così moderna da non invecchiare mai. Ultimi arrivi. Vi segnalo un libro di un'autrice di cui abbiamo parlato spesso in questa trasmissione, Renne Miroschi, 2, è pubblicato da Delphi, 238 pagine, 18,50 euro, tradotto da Laura Frausin Gaurino, e che ci riporta proprio a questo tema, al tema dei giovani. Questi sono dei ragazzi del 1920, la cui storia d'amore, la cui passione si avvia proprio nella notte di Pasqua. Ci ritroviamo adesso invece con un giovane romano molto più convincente secondo me di quelli parigini, ed è questo il protagonista del libro Prove di felicità a Roma Est, di cui è autore Rohan Johnson. Il nome è inglese ma lui è italianissimo. Il libro è pubblicato da Einaudi, 166 pagine, 16,50 euro. Questo è un romanzo di esordio di un 35enne, un esordio molto felice secondo me. Abbiamo la storia di un giovane di 21 anni che viene catapultato a Roma da un borgo della Maremma per conquistare un pezzo di carta che altrimenti non arriverebbe mai, in una scuola per ripetenti della capitale. La scuola sarà l'ultimo dei suoi problemi per sbarcare il lunario. Infatti Lorenzo, e questo è il nome del protagonista, si mette in una nuova professione, quella del pony pizza, sfruttando la sua vespa che ha portato giù dal paese. Si infila in una storia d'amore sempre più complicata che vede come partner la ragazza del suo migliore amico, e poi sullo sfondo c'è Roma, quella Roma che gira in continuazione per consegnare le pizze con la sua vespa. Proprio Roma diventa in qualche modo una delle protagoniste di questo romanzo, e Roma è la capitale, la grande città che gli amici rimasti su in Maremma sognano come la Mecca e la sede di ogni possibile divertimento e anche di molti possibili peccati. E invece Lorenzo ne scopre presto tutti i lati contraddittori, e rivolgendosi idealmente ai suoi amici fa capire loro che in fondo il destino metropolitano non è sempre necessariamente migliore di quello di chi abita nei piccoli centri. Sentite per esempio queste righe. Non volevano sentirselo dire che io a Roma non stavo facendo nessun casino serissimo, che alla fine dei conti stavo vivendo peggio di loro, con meno soldi e anche meno divertimenti. Perché funziona così. Più è importante e ricca una città, e più devi essere importante e ricco tu. Altrimenti, se fai il morto di fame, allora meglio farlo al tuo paesello, con mamma accanto e Gino che ha l'alimentari e ti fa credito. Nella grande città non solo ti devi alzare un'ora prima, ti tocca prendere lo smog e tutto costa di più. Ma vieni pure a sapere che c'è quel concerto e quell'altro spettacolo, ma costano tot e tot e comunque la sera devi lavorare. E rosichi quando vedi per strada quel tipo della TV che non sa fare niente a parte rimanere simpatico. E a fare quello ci riescono in diversi tuoi amici. Ma lui è famoso e milionario e loro sono al circolo a bere i fondini delle birre. Ma non gliele potevo dire per filo e per segno queste cose. Gli sarebbe venuta una colica, un blocco intestinale. Mi volevano bene e proiettavano su di me le loro voglie di fuga. E siccome non ne volevano di noie, lasciavano andare me. Non ero più Lorenzo Baldacci. Ero diventato un biglietto della lotteria. Un sistemone al totocalcio che avevano fatto tutti insieme. Vi segnalo adesso un paio di gialli che hanno a che fare con i libri. Si intitola il primo L'ultimo libro ed è di uno scrittore di Belgrado, Zoran Zivkovic. È pubblicato da Tea, 234 pagine, 10 euro. Qua siamo in una libreria indipendente, una delle sempre più rare librerie indipendenti dove i lettori possono andare, sedere nella poltrona, leggere comodamente i loro libri. Si chiama Il Papiro e a un certo punto questa libreria, questo luogo ideale di riflessione e di consolazione, diventa teatro di alcuni inspiegabili delitti. Si incontra nella libreria la titolare e il poliziotto che curerà questa inchiesta, una strana figura di ispettore, Dejan Lukic, che è molto appassionato di libri e quindi il rapporto con la libraia diventa ben presto prima un rapporto quasi di scambio di conoscenze librarie e poi un vero e proprio rapporto sentimentale. Naturalmente sempre viva è l'inchiesta che i due conducono e che arriverà a scoprire delle trame sempre più oscure e misteriose. Interessante nel libro la descrizione di alcune deformazioni tipiche che servono bene a descrivere il rapporto non sempre facile tra autore, lettore e opera, come illustra per esempio questo breve dialogo tra la libraia e l'ispettore sul caso di un autore che compra direttamente tutte le copie del suo libro. Ogni volta che viene qui, e ci viene almeno una volta alla settimana, un altro cliente compra sempre lo stesso libro, tutte le copie che trova. È da un anno che va avanti così. Gli abbiamo venduto quasi 150 copie dello stesso titolo. Forse lui è l'autore. Questo non mi è mai venuto in mente. Ma perché un autore dovrebbe privare i lettori della possibilità di comprare il suo libro? Oh, ci potrebbero essere due ragioni. Forse non è contento di quello che ha scritto, oppure, al contrario, è troppo contento e crede che nessuno sia all'altezza della sua opera. Questo sarebbe egoismo di primo ordine. Ci sono pochi scrittori che possano vantare la virtù dell'umiltà. Io non ne ho ancora conosciuto uno così, e ne conosco tanti. Un altro ambiente librario è quello nel quale opera Victor Legris, il personaggio creato da due sorelle entrambe libraie, Liliane Corbe e Laurence Lefebvre, che pubblicano col nome di Claude Isner. Il titolo del libro è Il rilegatore di Batignolles, pubblicato da Nord, 366 pagine, 17,60 euro, ed è tradotto da Marat Dompé. Del libraio Legris abbiamo già parlato in questa trasmissione. Vi ricordo che siamo nella Parigi della Belle Époque, nella fine dell'Ottocento, una Parigi nella quale anche i librai possono diventare protagonisti di avventure poliziesche non banali, che qui si avviano dall'uccisione appunto di un rilegatore. Agli appassionati di libri segnalo, se vogliono farsi un bel regalo per Pasqua, un libro particolarmente prezioso. È un libro di Andrea Alciati, un dotto giurista della Milano del Cinquecento, che fu uno dei primi documentati a essere colpiti da quel morbo che alcuni hanno chiamato libridine, cioè la passione per i libri. E Alciati espresse questa sua passione in un librettino, quasi un divertissement per lui, che invece è passato passato alla storia, un libro del 1531 che diventò per l'epoca subito un best seller. Si intitolava L'Emblematur Liber. Qui Alciati raccolse e spiegò tutti i simboli dei grandi editori, a partire da forse quello più famoso, L'Ancora di Aldo Manuzio. E il libro adesso ritorna col titolo Il libro degli emblemi ed è curato, tradotto e commentato da Mino Gabriele, pubblicato da Adelphi, 734 pagine, naturalmente ricchissimo di illustrazioni, costa 80 euro. Questa è un'opera particolarmente significativa e singolare. Come spiega il curatore, la possiamo considerare un vero e proprio cosmo letterario e figurativo di cui impressiona l'inesauribile vitalità e versatilità che attraversa per secoli la cultura europea, scaturita da quel piccolo libro, dallo straordinario contenuto creativo che lo anima. Un'opera più maneggevole invece è Bestiario bibliofilo, imprese di animali nelle marche tipografiche dal XV al XVIII secolo e altro, di Hans Duzzi, che è un bibliofilo e giallista. L'editore è Sylvestre Bonnard, 186 pagine, 20 euro. Questo è una specie di dizionario, ogni voce del quale illustra un animale reale o fantastico e l'utilizzo della sua immagine è stata fatta nell'editoria, ma non soltanto. Quindi abbiamo due sezioni di questo dizionario, una descrizione vera e propria degli animali e poi la descrizione del modo in cui quegli animali furono utilizzati e furono sfruttati, per così dire, per diventare dei marchi editoriali rimasti spesso famosissimi. Dopo aver parlato di librai detective, parliamo di librai librai, cioè della professione classica del libraio, che ci viene descritta nel libro di Romano Montroni, Vendere l'anima, il mestiere del libraio, che è un libro che ha la prefazione di Umberto Eco, pubblicato dalla Terza, 290 pagine, 11 euro. Questo è in realtà una ristampa di un classico sulla professione del libraio, scritto da un protagonista di questa professione, che in questa edizione in particolare fa i conti con la trasformazione del mestiere del libraio. Il libro dunque non si rivolge soltanto agli addetti ai lavori, ma anche ai lettori, che potranno capire leggendolo come si formano le scelte del libraio e quindi quali sono i criteri che lo hanno portato a selezionare i volumi che il lettore stesso trova sul banco del negozio che sta frequentando. Scelte sulle quali, scrive Montroni, possono incidere molto anche le recensioni che di quel libro sono state effettuate. Naturalmente attenzione che quando andiamo in libreria possiamo trovare delle autentiche bufale, dei libri cioè che promettono e non mantengono, non perché siano più brutti di quanto avremmo sperato, ma perché magari sono il frutto di autentiche invenzioni. E questo è il tema di un libro che adesso vi propongo, di Melissa Katsoulis, una giornalista americana. Si intitola Il libro dei libri bugiardi, l'avventura millenaria dei falsi letterari, pubblicato da Rizzoli, 376 pagine, 18,50 euro, tradotto da Natalia Stabilini e Andrea Zucchetti. Qui troviamo una cronaca di questa lunga storia degli imbrogli letterari, una storia che è antichissima. Un caso che racconta per esempio la scrittrice riguarda un episodio poco noto che avvenne nell'Italia del XV secolo, quando un frate addirittura inventò non dei libri ma produsse dei falsi frammenti di ceramica etrusca per dichiarare di aver scoperto importantissime opere perdute dell'antico scrittore religioso Berosus. Ma poi ci sono anche casi più recenti, per esempio quello di un autentico bestseller pubblicato nel 2003, in cui si raccontava la pietosissima storia della discesa nell'abisso dell'alcol e della droga e dell'eccezionale guarigione avvenuta unicamente grazie alle proprie forze, scrive l'autrice, tutta appunto una storia inventata. E questa prospettiva, secondo l'autrice, continuerà nonostante tutti gli sviluppi tecnologici. Il mondo continuerà a essere popolato da truffatori e anche da libri appunto imbrogli. I libri, scrive l'autrice, qualunque forma essi assumeranno, ci chiederanno sempre di stipulare con loro un contratto basato sulla fiducia. Finché ci saranno editori disposti a investire un autore dell'ambita opportunità di vedere la propria opera pubblicata, ci saranno scrittori disposti ad abusare, pervertire e fraintendere volontariamente la parola scritta. E a questo punto il confettino. Di Pablo Prestifilippo vi segnalo Manuale degli oggetti ribelli, tutta la verità sulle belve feroci che ci spiano nelle nostre case, pubblicato da Orecchio Acerbo, 9,50 euro. Rimaniamo un po' nel tema degli animali fantastici, perché qua gli animali fantastici possono diventare degli oggetti quotidiani, dal guanto vagabondo ai calzini selvaggi, e trovarceli dunque nelle case di tutti i giorni. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia, auguro ancora a tutti voi buona Pasqua, vi do appunto appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi ricordo il sito sul quale potete riascoltare queste e tutte le nostre trasmissioni, www.radio24.it. Buona settimana a tutti.